Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo affrontato il tema dell'ingegneria delle facciate, di come questi involucri altamente tecnologici, quasi sempre in vetro, parliamo delle grandi facciate per esempio dei grattacieli, riescano oggi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, a fornire prestazioni energetiche di altissimo livello, oltre che naturalmente presentarsi bene come dovrebbe qualunque prodotto dell'architettura. Questa sera ci focalizziamo su due aspetti specifici, ossia la possibilità di utilizzare queste tecniche che normalmente associamo alle nuove costruzioni, addirittura appunto ai grattacieli modernissimi, invece di utilizzare queste tecniche su edifici esistenti, e ci concentreremo anche su un altro aspetto, che è quello delle professionalità in questo campo. Diamo ancora una volta il benvenuto a Michael Krag. Michael Krag è associato di Arup Italia, che è uno studio di progettazione ben noto, ed è anche chairman della Society of Facade Engineering, quindi la società dell'ingegneria delle facciate, che è impegnata appunto a diffondere la cultura dell'ingegneria delle facciate. Buonasera Krag, bentornato. Buonasera, grazie. Allora Krag, ieri abbiamo parlato un po' delle caratteristiche tecnologiche, per esempio queste facciate areate, queste doppie pelli che consentono di controllare sia di accumulare calore sia anche invece di disperderlo velocemente a seconda della stagione, però noi associamo appunto al grande grattacielo nuovo e fiammante queste tecnologie. È pensabile invece applicare una pelle in vetro ad un edificio, magari, non so, in marmo, uno di quei vecchi edifici che troviamo in tante città italiane? Sì, secondo me sì. Bisogna dire che applicando un'altra facciata di fronte a un edificio esistente si fa solo pensando molto bene alle conseguenze. Qui ci vuole veramente cautela, però è assolutamente possibile. C'è qualche esempio? Ci sono esempi di edifici che sono stati rinnovati applicando una pelle esterna. Gli esempi sono tanti, in Italia forse un po' pochi. Vorrei solo dire che è un modo di, con un tocco leggero, rendere più moderno l'architettura, ma anche aumentare il valore dell'edificio. Quindi si può mettere sul mercato un edificio in modo, forse anche anche con un'originalità notevole, soprattutto appunto nel nostro paese. Ecco, senta, però io vorrei capire, una facciata di questo genere comunque avrà un certo costo in termini di realizzazione. Per un vecchio edificio un normale cappotto non può essere preferibile alla fine in termini di costi e prestazioni? O ci sono dei vantaggi specifici magari nell'usare la facciata in alcune circostanze? Sì, a volte sì. Io voglio dire che la facciata in vetro non è assolutamente sempre la risposta giusta. A volte è un cappotto più semplice e più corretto, ci sono vantaggi e svantaggi, e voglio dire che un cappotto in ogni caso va pensato bene per non danneggiare l'edificio esistente, e quindi l'integrazione di nuovo è fondamentale. Voglio dire che non vorrei solo parlare delle prestazioni energetiche, ma anche qui parlo delle qualità architettoniche dell'edificio. Deve ovviamente rispettare l'ambiente dove si trova l'ambiente circostante, poi soprattutto in un paese come il nostro, che ha una serie di vincoli anche più forti che non in altri paesi. Ecco, senta, dal punto di vista delle professionalità, oggi ci sono persone preparate in questo campo? Ci sono persone preparate, ma io ritengo che questo bisogno di integrare le discipline, io parlo qui di architettura, di strutture, di impianti, insieme al fatto che il campo è sempre di più dominato di tecnologie avanzate, qui veramente abbiamo bisogno di specialisti. Noi parliamo di ingegneri delle involucri e io sono uno di questi che si occupano attraverso le discipline dell'involucro. Ecco, mi pare di aver letto su una delle vostre pubblicazioni che definite un po' questa figura dell'architetto con la mente da ingegnere o dell'ingegnere con la mente da architetto. Sì, secondo me questo spiega molto bene di che cosa si tratta. Noi dobbiamo sapere che cosa c'è sul mercato, dobbiamo avere un'idea di chi è che va poi a costruire questa facciata mentre stiamo facendo i primi schizzi, e questo è fondamentale. Io come ingegnere lavoro con l'architetto in modo molto interattivo, sviluppando soluzioni dal punto di vista architettonico, ma sempre pensando a come va costruito dopo questa facciata. Ecco, ma come faccio a riconoscere un professionista e a sapere che questo professionista ha queste competenze? Sì, spesso ci si può affidare a uno che diciamo è già conosciuto, ma certo, se non si conosce una persona, abbiamo messo in piedi un sistema di certificazione. Visto che questo ruolo è abbastanza nuovo, sì, esiste da circa 25 anni a livello internazionale, però in Italia è abbastanza nuovo. Abbiamo messo in piedi questa Society of Facade Engineering, è un'associazione che offre certificazione di professionisti. E quindi attualmente è già accessibile, cioè se ci sono degli architetti o degli ingegneri che vogliono specializzarsi, sì, in questa direzione, possono rivolgersi a questa associazione. Quindi. Sì, e non solo, è anche un modo per noi di mettere in evidenza per professionisti giovani una possibile carriera che prima forse non era così evidente. Beh, qui sfondiamo una porta aperta, ma insomma lei lo consiglia, no? Insomma, di lavorare in questa direzione. Va bene, grazie Michael Krag. Grazie molte. Abbiamo ancora il tempo per un annuncio. La FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia, ha attivato un'indagine conoscitiva sulla consistenza delle apparecchiature che utilizzano energia nelle famiglie italiane. È un'indagine che ha lo scopo di raccogliere informazioni da comunicare a Eurostat che incideranno sulle politiche future dell'Unione Europea. Per chi volesse collaborare, visitate il sito di FIRE, www.fire-italia.it, troverete lì tutte le informazioni. È tutto, a domani.